Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Una università italiana ha ricevuto in regalo un'isola, forse anche due, però poi ci deve fare della ricerca. Di questo vi parleremo fra pochi istanti, il tempo per sentire i titoli di questa puntata. La Repubblica delle Maldive regala un atollo all'Università Milano Bicocca per fare ricerca sulla biologia marina e sulla biodiversità. Si chiama insufficienza cardiaca severa ed è una patologia che ogni anno miete molte vittime. Un nuovo dispositivo biomeccanico è in grado di migliorarne nettamente la cura. Si muove ed evita gli ostacoli, ma osserva l'ambiente con un procedimento neurale simile a quello dell'uomo. È un nuovo robot progettato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Molte patologie degenerative, tra cui l'Alzheimer, potrebbero essere dovute a carenze di rame. È quanto prevede la teoria della micronutrizione, un nuovo punto di vista sulla fisiologia umana. Le neuroscienze ci raccontano molte cose sul funzionamento della nostra mente. È il caso di ragionare su quali riflessi queste ricerche possano avere nei tanti dibattiti sulle questioni sociali e politiche. Lo si è fatto in un recente convegno a Padova. I cambiamenti climatici possono avere effetti sull'agricoltura e quindi sul cibo che finisce sulle nostre tavole. Andy Jervis, giovane ricercatore colombiano, sta cercando di capire cosa potrebbe accadere. Quando Freud era piccolo e andava a scuola, leggeva L'origine delle specie di Charles Darwin e nei suoi testi di psicologia tanti sono i riferimenti al grande naturalista. Il nostro ospite questa sera è Maria Luisa Lavitrano. Buonasera Maria Luisa Lavitrano. Buonasera a tutti voi. Ricercatrice all'Università Milano Bicocca in area biomedica, ci siamo sentiti tante altre volte per parlare delle sue ricerche, ma qui lei è in veste di delegato per l'Università alle relazioni internazionali, è così, no? È proprio così. E da una di queste relazioni internazionali è venuta fuori una, beh, insomma, per il momento è una notizia, ma è anche già una realtà abbastanza strana, curiosa e anche divertente da comunicare. Insomma, l'Università Bicocca deve decidere come amministrare una e forse due isole nelle isole Maldive, è così? È proprio così. Abbiamo firmato, il nostro Ateneo ha firmato un accordo con il governo delle Maldive che prevede una collaborazione sia nel campo della ricerca sia in quello della formazione. E vi hanno dato due isole, cioè vi hanno dato un'isola, però perché si può parlare anche di un'altra? Dunque, intanto abbiamo avuto un'isola che è l'isola di Bodumora nell'atollo Felidu, che è un'isola bellissima, spettacolare, sulla quale esiste già un laboratorio per effettuare ricerche e oggi anche una residenza che può ospitare i nostri ricercatori e anche i nostri studenti. E poi il Presidente delle Maldive sta considerando di metterci a disposizione un'altra isola, magari più vicina a Malé, alla capitale, dove potrà svolgersi in modo più adeguato la formazione, i progetti di formazione. E tra l'altro io ricordo che in questi giorni il Presidente della Repubblica delle Maldive è appunto in visita in Italia e in particolare a Milano. Beh, questo è un fatto singolare, lei ha già detto che appunto sostanzialmente diventeranno delle basi di ricerche, quindi non un posto per andare in vacanza studenti e professori. Che tipo di ricerca allora? Nel campo della biologia marina oppure anche altro? Ci dica un po'. Ma le ricerche principali sono nel campo ovviamente della biologia marina, ma non soltanto, perché anche in campo geologico facciamo delle ricerche abbastanza interessanti. Le nostre ricerche principali, i primi progetti che partiranno sono per esempio lo studio della biodiversità dei coralli. E voi sapete che i coralli sono un driver dell'economia e dello sviluppo turistico delle Maldive. E lo studio della biodiversità del corallo ci darà tra l'altro delle indicazioni molto interessanti su come è evoluta la speciazione, come il cambiamento climatico, l'impatto del cambiamento climatico ha influenzato anche la speciazione e i coralli. Inoltre lo studio dell'impatto del cambiamento climatico mediante tecniche avanzate di biologia molecolare sarà anche studiato e attraverso lo studio del bleaching del corallo, per esempio, potremo sapere quali sono stati gli effetti dello tsunami. Credo che, non so, può darsi mi sbaglio, però credo che non ci siano altri campus, altre università italiane che abbiano un'isola, addirittura forse due. Però possiamo dire che forse c'è qualche speranza di relazione con le Maldive, perché quante sono le isole di questa Repubblica? Le isole sono, pensate, ci sono 22 atolli, 1200 isole, delle quali solo 196 abitate, quasi più isole di abitanti. Gli abitanti delle Maldive sono solo 300.000. Il presidente però è stato molto chiaro in questi giorni, ha dichiarato ovunque che lui amerebbe vedere un turismo diverso alle Maldive, un turismo di giovani, un turismo di studenti, un turismo di, anche fatto di ricercatori, vuole vedere un'evoluzione del turismo attuale. Ed è questo anche uno dei motivi per cui ci ha stimolato ad attivare dei corsi di formazione, corsi universitari. Infatti noi prevediamo di attivare già in questa primavera il primo corso universitario per guida naturalistica e poi a partire dall'autunno dei corsi universitari per la gestione degli ambienti marini e per lo sviluppo sostenibile degli ambienti tropicali, e sono due degli argomenti in cui la Bicocca è all'avanguardia in Italia e anche in Europa. C'è qualche altra ricerca particolare? Ma un'altra ricerca molto di punta, direi, è una ricerca su un biomateriale, una biocolla che è prodotta da un organismo marino che è stato individuato alle Maldive. Questo organismo produce una biocolla la quale è in grado di saldare fermamente tessuti e la cosa interessante è che produce anche l'antidoto della biocolla, quindi si può... Per scollarla. Si può scollarle, quello potrebbe essere molto interessante questa ricerca per le sue applicazioni nella chirurgia. Maria Luisa Lavitrano, grazie e auguri a tutti voi per la gestione singolare ma utile di queste isole. Grazie mille. Ci sono patologie che aggrediscono la nostra salute con conseguenze anche gravi che sono molto meno note di altre invece che conosciamo per la loro gravità. E proprio a partire da questa osservazione che chiamo il mio ospite di questa sera, Filippo Mastropasqua. Buonasera Mastropasqua. Buonasera. Filippo Mastropasqua, cardiologo alla Fondazione Salvatore Maugeri, che è una fondazione che lavora nella ricerca in campo medico in generale. Ecco, Mastropasqua, con lei proprio introduciamo una di queste patologie poco note e gravi invece. Si tratta dello scompenso cardiaco, è una malattia questa, l'insufficienza cardiaca cronica in particolare, sempre più frequente e che ha un'incidenza elevata. Si stima per esempio che in Italia la percentuale è tra lo 0,5 e l'1% della popolazione generale. Quindi stiamo parlando di migliaia di casi? Sì, migliaia di casi. Con esiti gravi insomma? L'esito è tanto grave che la percentuale di mortalità nella patologia in questione è del 50% a 5 anni. Quindi molto più grave addirittura di altre patologie, come il cancro per esempio. Le chiedo che cosa si fa oggi in modo consolidato su questo tipo di patologia per cercare di aggiustare un po' le cose. Ecco, negli ultimi 20 anni sicuramente i vantaggi sono stati molteplici, ad opera soprattutto della terapia medica. Nuovi farmaci in particolare hanno fatto sì che questa malattia abbia visto una migliore qualità di vita nei pazienti colpiti e anche un miglior grado e migliore ampia durata di sopravvivenza. Questo è uno dei mezzi però con cui è andata avanti la ricerca in campo cardiologico. Un altro mezzo è la possibilità di accedere a quella che conosciamo tutti come la soluzione finale, l'ultima ratio, che è il trapianto cardiaco. Certo, però... E qui vorrei mano a mano avvicinarmi alla tecnologia che viene fuori dal lavoro di ricerca suo e del suo gruppo. Ecco, per riuscire però a creare delle condizioni curative migliori c'è un intervento di tipo chirurgico che viene fatto oggi. Sì, molti chirurghi hanno proposto soluzioni differenziate e in tempi più recenti dando anche dei sussidi che sono quelli di un intervento meccanico esterno che in qualche modo aiuta il cuore, oltre ad interventi elettrici che possono garantire la sincronia di contrazione tra le camere ventricolari, dando un maggior contributo alla capacità del cuore di pompare. Allora, in particolare rispetto alla insufficienza cardiaca ci sono casi determinati dalle cosiddette cardiomiopatie dilatative, che sono situazioni molto serie e molto gravi che colpiscono anche la popolazione giovanile e addirittura infantile. In questi casi, da qualche anno è avanzato il concetto che queste malattie possano non più solo essere controllate, ma addirittura regredire. Si tratta di applicare a questi pazienti però delle terapie mediche a dosaggi in modalità talmente fuori dal dosaggio normale che non potrebbero essere sostenute se il paziente in qualche modo non fosse aiutato da un device meccanico. Lei usa il gergale scientifico device, che vuol dire strumento, no? Sì, senz'altro. I device meccanici sono appunto delle apparecchiature che si impiantano nel paziente e garantiscono il sostegno al cuore mentre il paziente riceve queste cure che altrimenti non sarebbero possibili. Il problema dei device attualmente in uso è che sono altamente invasivi, debbono essere impiantati sia in torace che in addome, hanno una serie di parti meccaniche ed elettriche che non possono essere alimentate solo all'interno e quindi hanno bisogno di un tramite con l'esterno che può essere di tipo pneumatico o solo di tipo elettrico e che quando o qualora il device non servisse più deve essere per forza espiantato perché il sangue passa attraverso questi device che funzionano appunto da bypass. Quindi si arriva a una terapia buona, ma però c'è un passaggio molto pesante dal punto di vista fisico per via di questa strumentazione. Sì, si tratta infatti di una strumentazione che è anche molto complicata da impiantare. Si pensi che gli interventi fatti con questi sistemi richiedono più ore dello stesso trapianto cardiaco che in confronto risulta addirittura certe volte banale. Quello che noi stiamo cercando di portare avanti è un concetto del tutto innovativo, che significa non intervenire così pesantemente, bensì aiutare il cuore nella sua contrazione naturale, dandogli una specie di sostegno esterno. E qui arriva la vostra tecnologia. Ecco, questo, diciamo, cuore artificiale molto più leggero, come è fatto? Questo cuore artificiale, che in realtà è solo un device esterno che viene impiantato unicamente nel torace, garantisce un movimento di alcuni elementi che si mettono ad anello intorno al cuore. Quindi è un intervento esterno che coordina l'attività del cuore aiutando la sua contrazione naturale. Il device sente l'attività del cuore e in concomitanza con il suo naturale tentativo di contrazione lo aiuta a contrarre. In conclusione, Mastro Pasqua, è uno strumento molto leggero dal punto di vista chirurgico e quindi questo non crea quella pesantezza terapeutica di cui si diceva prima. Sicuramente è molto leggero dal punto di vista chirurgico, tanto da pensare di poter essere impiantato solamente nel torace, quindi con un unico atto operatorio. Ma il vantaggio sostanziale rispetto agli altri è che una volta che il paziente abbia visto la regressione della sua malattia, cosa che ormai è certo può essere fatta, e si può semplicemente spegnere. Grazie Mastro Pasqua e auguri per la ricerca. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qui di solito c'è il nostro gioco, il quiz, oggi si cambia, ve lo facciamo fra poco, colpi di pistola nei televisori, sarà questo il tema. Adesso invece Chiara Albicocco vi presenta un robot costruito in Italia, che impara a guardare le cose usando qualcosa che si vuole essere molto simile al funzionamento della nostra mente. Sentiamo. Si muove in mezzo a una stanza piena di ostacoli, proprio come farebbe un umano. E fin qui non avrebbe nulla di nuovo e di stupefacente il robot progettato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Invece la vera innovazione è che si districa e si sposta guardando il mondo esterno con gli stessi meccanismi neuronali degli esseri umani. Simula, cioè, le aree visive del sistema nervoso centrale umano. Ha solo un difetto. Non ha ancora un nome, è vero Frisoli? A dire il vero non ha ancora un nome ufficiale, però mi hanno fatto notare dei miei studenti che invece ha un nome non ufficiale che è Gennaro, un acronimo scientifico molto complesso ma di poi semplice efficacia. Italianissimo tra l'altro. Infatti. È nostro ospite, ecco l'avete sentito, Antonio Frisoli, che è il coordinatore del progetto di questo robot per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. E intanto benvenuto. Grazie. Dicevo che lei è il coordinatore italiano perché in realtà si tratta di un progetto internazionale. Certo, è un progetto europeo finanziato nell'area di ricerca che viene chiamata sistemi cognitivi. E il consorzio è composto da 9 partners europei, tra cui il coordinatore e l'Università di Regensburg, col professor Mark Grindi, e noi partecipiamo come laboratorio di robotica percettiva PERCLO della Scuola Superiore Sant'Anna. Ho anticipato che la vera novità della vostra creatura è che ha un sistema artificiale, per così dire, che riproduce l'attività e il funzionamento però del nostro cervello, è così? Certo, lo sforzo diciamo che abbiamo fatto in questo progetto è cercare di simulare al meglio le aree visive in particolare, le aree che vengono utilizzate, le aree cerebrali utilizzate per prendere decisioni dal nostro cervello, di modo da dotare questo robot di un'intelligenza artificiale che somiglia il più possibile a quella dell'uomo. Ecco, anche se è difficile, ci può spiegare come funziona in maniera semplice? Sì, diciamo a livello visivo tipicamente sì. Si distinguono due processi principali attraverso cui noi ci muoviamo, identifichiamo gli oggetti intorno a noi. Vengono a volte chiamate l'area del dove e l'area del quando. L'area del dove sarebbero le aree che identificano la posizione degli oggetti, mentre le aree del quando sono quelle che identificano la velocità con cui noi ci muoviamo nell'ambiente circostante, quello che viene denominato flusso ottico. In particolare il flusso ottico viene simulato, viene calcolato dalle aree visive V1, V2 e poi MT, e abbiamo dotato il robot di una simulazione di queste aree, quindi il robot è in grado di stimare la velocità con cui si sta muovendo, un po' come facciamo noi quando siamo in macchina, siamo fermi, non abbiamo movimento nel nostro corpo, ma siamo in grado di percepire la velocità e di utilizzarla nel processo di navigazione per decidere come modificare la sua traiettoria nel caso debba raggiungere un obiettivo, modificare o evitare un ostacolo. Sì. Insomma, quando noi ci muoviamo nello spazio vengono impiegate certe aree cerebrali e diciamo che lo stesso modello viene poi applicato invece alla vostra macchina, al vostro robot. Sì, diciamo, la simulazione di queste aree sono delle reti di neuroni che in inglese vengono denominati spiking neurons, sono dei neuroni che simulano effettivamente il comportamento delle nostre cellule nervose e nell'insieme queste reti sono opportunamente modellate per produrre come risultato finale quello che poi è la registrazione che si ha a livello elettrofisiologico, per esempio, nei neuroni di animali durante i studi che vengono effettuati oppure che si può dedurre da studi di brain imaging sull'uomo. Ecco, i risultati che avete ottenuto mi sembrano ottimi. Ho anche visto un video che, per chi fosse curioso, lo può trovare anche sul nostro sito www.moebiusonline.eu, che è stato pubblicato dal New Scientist, in cui si vede proprio come il robot reagisce, insomma, agli stimoli esterni. Certo, uno degli obiettivi che ci eravamo posti era anche quello di permettere al robot di muoversi ad altissima velocità per mettere in evidenza alcuni meccanismi decisionali di quando noi siamo in movimento ad alte velocità. E quindi ad alte velocità è tutto più complesso, perché chiaramente bisogna calcolare il tempo sì. Di impatto. E questo, diciamo, siamo riusciti a farlo con successo, perché nelle varie dimostrazioni il robot è in grado di districarsi anche velocemente in percorsi con diversi ostacoli. E senta, che tipo di applicazioni potrebbe avere questo studio? Ma le applicazioni sono molteplici. Una ricaduta chiaramente è un feedback alla ricerca neuroscientifica, validando in qualche modo idee e modelli che vengono in qualche modo studiati, dedotti da osservazioni solo su osservazioni tipo sperimentale. Dall'altro lato c'è tutto il campo di poter produrre degli strumenti per persone che hanno disabilità della vista. Ad esempio c'è la possibilità di dotare una carrozzetta di sensori intelligenti che possano consentirle di modificare la traiettoria del percorso nel caso in cui vi siano degli ostacoli, tenendo conto anche per esempio della velocità con cui si muove il mezzo. Certo, abbiamo parlato poche trasmissioni fa con un suo collega del Politecnico di Milano che aveva messo a punto un sistema piuttosto simile per, appunto, le carrozzine dei disabili. Lei ha dichiarato al Corriere che siamo sulla buona strada per la visione artificiale. Ecco, questo è vero? Ci deve spiegare. Diciamo, la strada è una strada lunga, devo dire. La visione è sicuramente a livello di neuroscienza è uno degli ambiti più studiati, in cui ci sono moltissimi risultati. Quello che è difficile attualmente è combinare, esistono anche dei modelli molto accurati informatici che possono simulare il funzionamento di queste aree. Il passaggio difficile è poter avere oggi dei tempi di calcolo così ridotti che consentono di usare questi modelli su dei robot in tempo reale, non richiedendo giorni di simulazione. E questo, a mio avviso, diciamo, da parte nostra è uno dei primi risultati che va in questa direzione, secondo me è molto significativa. Ecco, quali saranno i prossimi passi di Gennaro? Tecnologici, intendo. In questo momento ci stiamo concentrando anche sull'effetto che il movimento degli occhi, le saccadi hanno sulla percezione dello spazio, quindi la simulazione di quello che i nostri occhi normalmente fanno in modo automatico quando noi osserviamo un ambiente. E l'altro aspetto importante è la simulazione delle aree di memoria, quindi l'apprendimento di un luogo che è un tema anche molto sviluppato in ingegneria, ma con approcci di tipo diverso. Insomma, lo perfezioneremo. Va bene, allora buon lavoro, professor Frisoli. La ringrazio, arrivederci. Lo sapete, no? Che dobbiamo conservare le foreste del pianeta perché lì possiamo trovare principi attivi di straordinaria utilità per tante patologie. Ma in natura ci sono anche gli elementi, quelli della tavola di Mendeleev, e da qui possono arrivare molte nuove sorprese. Sentite Maurizio Melis che vi racconta quanto potrebbe rivelarsi importante il rame. Negli ultimi anni sono sorte numerose ipotesi circa il possibile coinvolgimento del rame in numerose patologie degenerative. In particolare l'Alzheimer sarebbe determinato da una carenza di rame. A questa tesi, che è sostenuta da tempo dal professor Leslie Clevey dell'Università del Nord Dakota, sta portando un contributo notevole il professor Benedetto Salvato, fisiologo dell'Università di Padova, che svolge ricerca sul metabolismo del rame da ormai 8 anni in collaborazione con vari centri di ricerca sparsi per il paese e anche con delle collaborazioni internazionali. Uno dei risultati principali di questa ricerca è l'aver compreso che i corretti livelli di rame, che è un micronutriente estremamente importante, possono essere ripristinati nell'organismo laddove c'è una carenza, evidentemente solo per via dietetica, cioè somministrando di fatto dei cibi ricchi di rame e non rame in forma metallica o sotto forma di sale. In questa direzione ci sono segnali estremamente incoraggianti, perché alcuni pazienti alzheimeriani sono stati trattati con una dieta iperrameica, ottenendo un recupero nel benessere generale, accompagnato da un miglioramento comportamentale e di umore che è stato riferito sia dai congiunti sia dal personale medico. Salvato ha sviluppato un'interpretazione molecolare di questo complesso di fatti che prende il nome di teoria della micronutrizione, che potrebbe rendere conto non solo dell'Alzheimer ma anche di un ampio ventaglio di patologie degenerative oggi senza alcuna cura. Noi di Mebius non ci occuperemo delle implicazioni di questa ricerca strettamente nel campo della salute, cercheremo invece di capire i fondamentali di questa teoria della micronutrizione in compagnia del professor Benedetto Salvato, che è in linea con noi. Buonasera, Salvato. Buonasera. Dunque, io le chiedo innanzitutto di spiegarci che cosa sono questi micronutrienti. I micronutrienti sono un gruppo di composti o di elementi abbastanza limitato, che prendono parte a processi estremamente importanti dell'organismo, ma hanno una concentrazione nei cibi e quindi anche nei organismi molto bassa, molto più bassa degli altri che sono macro. Ci faccia qualche esempio. Sì, sono alcuni metalli, per esempio il rame, il ferro, lo zinco, il manganese, poi ci sono delle vitamine, la vitamina B6, il gruppo B12 e poi c'è qualche aminoacido. Da un punto di vista della natura, le loro funzioni sono queste, quelle di fare da gruppo funzionale di enzimi che poi hanno degli impieghi di grande rilievo all'interno dell'organismo. Io direi che qui ci sta un esempio che è più noto perché lo si studia a scuola. Tutti sanno che nell'emoglobina ci sono degli atomi di ferro che formano il sito a cui si attacca l'ossigeno. Esatto. E poi viene trasportato. Ecco, anche il rame e altri metalli sono presenti in varie proteine con funzioni appunto di enzima. Il rame ha molte funzioni, una più importante dell'altra. La più importante prende parte alla macchinetta che produce l'energia dal catena ossidativa del mitocondrio. Questa è la sua funzione principale, perché l'energia è un fatto che interessa qualsiasi tipo cellulare. In che cosa differisce l'assimilazione dei micronutrienti rispetto a quella dei macronutrienti, che sono grassi, zuccheri e proteine sostanzialmente? I grassi, zuccheri e proteine l'organismo le deve prima degradare e poi le può riconoscere, i pezzi degradati, le può riconoscere e farli entrare all'interno dell'organismo. Questo processo è un processo a riconoscimento, per cui avviene su quantità relativamente grosse, perché i macronutrienti si adoperano, l'organismo si adopera a centinaia di grammi. Viceversa, i micronutrienti sono invece molto meno concentrate, e essendo molto meno concentrate non possono adoperare lo stesso tipo di trasporto che è adoperato dai macronutrienti, per cui devono inventarsene uno molto diverso, che consenta di concentrarli nel posto giusto, avere un qualche tipo di riconoscimento a controllo incrociato e poi passare in gruppo, perché altrimenti non ce n'è abbastanza per poterle utilizzare. E tutto ruota intorno al rame. Il problema si pone in questi termini qua. I micronutrienti possono entrare solo e soltanto con un sistema integrato, per cui è possibile avere un trasporto per grandi gruppi di molecole alla volta. Il meccanismo di trasporto fa delle vescicole che sono piene di questi micronutrienti. E il rame, come leader, controlla il processo di formazione della vescicola. Okay. Queste vescicole si possono formare quando c'è il rame e i micronutrienti. Se non c'è il rame, il meccanismo non può funzionare. La macchinetta è strettamente dipendente dalla presenza di rame. Ecco, una domanda che viene abbastanza spontanea è come mai una spiegazione che apparentemente è così semplice come una carenza di rame possa essere sfuggita ai molti che hanno cercato di capire a cosa fosse dovuto l'Alzheimer e anche altre patologie degenerative. Un punto che però è emerso durante le nostre chiacchiere precedenti è che una delle difficoltà principali che si incontrano studiando il metabolismo dei micronutrienti sta nel fatto che l'organismo, in assenza di alcuni micronutrienti, mette in atto dei meccanismi di mascheramento, per così dire. Per cui sembra che il problema sia un altro. Ci fa un esempio? Il caso dell'anemia. Manca emoglobina, si va in anemia, allora manca ferro. Bene. Il ferro viene mobilizzato da un enzima rame, ma se questo enzima rame ce n'è poco, o è poco attivo, è chiaro che si mobilizza poco ferro, per cui si maschera una deficienza di ferro quando il ferro è presente. Vi segnalo che su questo tema sul nostro sito www.moebiusonline.eu c'è uno speciale, un approfondimento, e vi dico anche che intorno a queste ricerche sta per nascere un'associazione che ha come scopo raccogliere fondi per borse di studio sul metabolismo del rame. Stanno aderendo molte realtà diverse, importanti. Se qualcuno è interessato ci scriva che creeremo il contatto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso ci siamo veramente, eccoci al quiz. In molte scene di film d'azione, di serie televisive poliziesche, abbiamo spesso visto qualcuno che spara dentro dei televisori o dei monitor, e qui ci riferiamo a quelli non a cristalli liquidi, parliamo di quelli classici con il tubo catodico. L'effetto che ne viene fuori è di un'esplosione forte con fiamme che escono violentemente. È vero che le cose vanno in questo modo nella realtà? Prima risposta, no, non succede niente di tutto ciò, il proiettile buca il monitor, l'apparecchio smette di funzionare, ci scriverete niente. Seconda possibilità, di solito in questo genere di produzioni cinematografiche si tende ad esagerare negli effetti, ma in questo caso sparare dentro un monitor produce proprio questi effetti. È esatto quindi, ci scriverete esatto. Terza e ultima possibilità, siamo invece in un caso opposto, spesso nelle scene c'è gente che spara dentro i monitor, se ne sta a qualche metro, gli effetti invece sono nella realtà ben più gravi, perché il tubo catodico è un oggetto con parti di vetro molto spesse e sottovuoto, il proiettile frantuma il vetro e l'aria che riempie violentemente il vuoto genera una forza che proietta a notevole distanza migliaia di piccolissime e pericolosissime schegge. Ci scriverete schegge. Scriverete come sempre al numero di SMS 349-238-6666. Il libro che si vince in questa puntata è Io Robot di Isaac Asimov, editore Mondadori, un grande classico della fantascienza. In collaborazione con IBS.it. Negli ultimi anni le neuroscienze hanno aperto nuove importanti prospettive di ricerca. La ricerca è quella che mira a comprendere quali siano i processi che segue la nostra mente per gestire i nostri comportamenti, da come ascoltiamo dei suoni e in esse, per esempio, riconosciamo un ritmo, a come seguiamo il movimento di oggetti nella realtà. Però Però ci si spinge anche verso comportamenti più complessi, per esempio l'emotività, che si innescano quando guardiamo dei volti o certe espressività come ridere, piangere, il dolore. Di recente ci si è anche avventurati nell'analizzare ciò che potrebbe stare all'origine di scelte quotidiane, come acquistare o in genere fare delle scelte economiche. La possibilità di fare ricerca in queste direzioni è supportata anche da nuove e potenti strumentazioni tecniche basate sull'uso di apparecchiature che hanno aperto strade impensabili fino a poco tempo fa. Una di queste tecniche, ne abbiamo parlato spesso qui a Mebius, è quella definita in inglese imaging, la possibilità di esplorare mentre le cose avvengono quali zone del cervello si attivano. Adesso saluto i nostri ospiti. Michele Di Francesco, docente di filosofia della mente all'Università San Raffaele di Milano. Buonasera Di Francesco. Buonasera. E Raffaella Rumiati, docente di neuroscienze al settore neuroscienze cognitive della SIS a Trieste. Buonasera Rumiati. Buonasera. Vorrei incominciare da lei, Rumiati. Si è appena concluso a Padova un convegno nel quale ci si è appunto interrogati su quali effetti possa avere nelle tante situazioni in cui ci si trova a dover ragionare sui comportamenti umani, pensiamo per esempio alle frequenti discussioni su problemi tipo etico, quali effetti può avere una scienza che ci propone delle spiegazioni su come funziona la nostra mente. Voglio estremizzare volutamente, perché poi qui è una parte del problema. Se si arrivasse alla conclusione che noi siamo strutturalmente, intrinsecamente egoisti, beh, si potrebbe dire che ogni discussione sui valori della solidarietà perderebbe gran parte delle sue funzioni, no? Sarebbe più utile vedere se si può sintetizzare un farmaco che ci inietti dosi di altruismo. Rumiati, le chiedo, com'è lo scenario tra quello che effettivamente produce la ricerca e certamente questo alone che si sta distendendo ben oltre le ricerche in neuroscienze? Le sue preoccupazioni sono condivise, e sono condivise e sono state infatti quelle che credo abbiano mosso il convegno che si è svolto a Padova la settimana scorsa. Allora, sono già stati sicuramente raggiunti dei risultati importanti con le tecniche dell'imaging, soprattutto direi in ambito clinico. Cominciano sicuramente anche ad esserci dei risultati interessanti per quanto riguarda il funzionamento e la localizzazione di funzioni quali, che ne so, il linguaggio, la memoria, eccetera. La questione diventa un pochino più meno semplice e anche, come giustamente ha detto lei, è un pochino più preoccupante quando invece si comincia a parlare di tratti da personalità, scelte di acquisto, scelte politiche, eccetera. Quello che volevo dire è che mentre per quanto riguarda le applicazioni nell'ambito clinico sicuramente si sono visti dei risultati positivi e importanti, pensiamo alla diagnostica fatta per mezzo della risonanza magnetica, pensiamo all'utilizzo per esempio della stimolazione cerebrale profonda con i pazienti che soffrono di Parkinson, con i pazienti compulsivi ossessivi. Mentre invece per quanto riguarda l'applicazione funzionale della risonanza anche di altri metodi di imaging, anche lì ci sono state delle ottime applicazioni diciamo così sperimentali per quanto riguarda l'ambito dello studio del linguaggio, della memoria, del riconoscimento dei volti, degli oggetti e anche non so della produzione motoria, però un po' più ambigua la situazione, anche più preoccupante quando invece si tratta di analizzare gli aspetti più intimi della mente e della personalità. Questo tipo di applicazioni possono mettere in difficoltà gli individui, ma soprattutto non siamo certi ancora che siano individuati con accuratezza. Sì, quello che le chiedo è: la ricerca è effettivamente prossima a darci dei risultati nell'interpretazione dei comportamenti sociali più complessi? Possiamo aspettarci in qualche futuro, non lontanissimo, che questo avvenga. Il punto però è che sicuramente, allora, il primo problema è che essere consapevoli dello stato dell'arte degli strumenti che dei metodi che utilizziamo, delle tecniche che utilizziamo, e al momento certamente non ne siamo così sicuri, certo. almeno per questi studi, diciamo così, nell'ambito delle neuroscienze sociali, ecco. Il secondo punto è anche quando siamo in grado di farlo, lo vogliamo fare e come lo vogliamo fare. E qui vengo a lei allora, Di Francesco, come filosofo. La filosofia in questo caso e anche in altri casi di ricerca scientifica diventa e sta diventando uno strumento importante per capire come la scienza produce delle idee e che ricadute può avere. Lei come la vede questa possibilità e anche questo orizzonte? È un campo di studi estremamente affascinante che promette anche in tempi ragionevolmente brevi di modificare molte delle nostre concezioni più solide, appunto, rispetto al tipo di individui che noi siamo, alla razionalità, come vediamo, come operiamo le scelte, questioni di questo tipo. Quindi è un campo che vale senz'altro la pena di studiare, su cui bisogna assolutamente riflettere. Certamente una difficoltà che è già stata sottolineata dalla professoressa Rumiati ha a che fare con come interpretiamo poi tutti questi dati, cioè perché non è sempre così evidente che diciamo risultati che si ottengono in situazioni di laboratorio si adattano poi anche alle spiegazioni nella vita reale di come le persone si comportano. L'altro problema è che ci può essere e c'è da parte di molti un timore che tecnologie di un certo tipo che sono in grado di invadere il regno della privacy per eccellenza, no? Cioè la nostra mente, il nostro cervello, eccetera, possono essere anche uno strumento abbastanza pericoloso, quindi da usare con molta cautela. Senza volere frenare in nessun modo la ricerca, bisogna poi stare attenti chiaramente al tipo di implicazioni che possono venire fuori in termini, un po' come nel caso della biologia, no? Schedare geneticamente le persone può servire a curare le malattie, ma può servire anche a non assicurarle se questo può essere svantaggioso da un punto di vista economico, no? Allo stesso modo è un'indagine troppo invasiva, per così dire, dei tratti di personalità potrebbe essere utilizzata a scopi di discriminazione, soprattutto, e su questo sono d'accordissimo con la mia collega, perché non sappiamo ancora effettivamente fino a che punto c'è un'affidabilità di questo tipo di ricerche e di risultati. Ecco, infatti io vorrei chiudere con una domanda a tutte e due, proprio, come dire, per inquadrare in modo nettamente il problema. Faccio un esempio: insomma, 4 giorni dopo che i fratelli Wright fecero i primi 350 metri in volo, c'erano già sulle riviste le astronavi ad elica che volavano su Marte. È comprensibile, è umano, no? Cioè, quando si entra in possesso di tecnologie molto potenti, si tende a debordare. Ecco, però questo sta già avvenendo adesso, cioè sulla base delle ricerche che ci vengono fuori dalle neuroscienze, è vero che si sta cercando di estrapolare troppo e quindi non è vero che c'è al momento questa potenzialità della ricerca, Rumiati? Dunque, è uscito qualche giorno fa un articolo in cui si metteva in luce come un buon numero delle ricerche fatte nell'ambito delle cosiddette neuroscienze cognitive e sociali ci fossero degli errori di statistici, per esempio. Esatto, sì, ecco, l'abbiamo visto allora, quell'articolo. Ecco, qui voodoo correlations. Questo significa che è ovvio che siamo tutti, io per prima, siamo tutti interessati a che queste tecniche diventino affidabili. Il punto è che al momento non possiamo dire, guardando un'attivazione, questo mi comprerà sicuramente dei pomodori, una macchina, oppure voterà sicuramente per Obama. Questo mi sembra al momento non verosimile. Un orizzonte eccessivo. Di Francesco? Sì, effettivamente il problema è di tenersi alla larga dal fascino delle scorciatoie, no? Avere trovato una strada importante. Tuttavia, appunto, pensiamo al caso del voto, il concetto di neuropolitica, no? Di cui, allora, senz'altro possono essere fatti degli studi interessanti sui motivi per cui noi prendiamo certe decisioni politiche anche sulla base del modo in cui un certo candidato appare, viene percepito, eccetera. Ma è ovvio che la politica è una cosa che parla di economia, di società, di cultura, di religione, di tradizioni. Per capire le scelte politiche sono tantissimi fenomeni. L'entusiasmo per poter, come dire, guardare nel cervello mentre uno opera una qualche forma di prende una qualche decisione politica, non deve però condurre all'idea che poi si può ridurre tutto quanto a un esame di aree cerebrali. Per capire le ragioni della politica occorre considerare anche la società nel suo complesso, eccetera. Mi sembra un esempio evidente, ma possono essercene tantissimi. È chiaro, ripeto, sono d'accordo, c'è una grande impariamo qualcosa di importante, cioè impariamo qualcosa di importante sugli esseri umani, sul fatto che noi, oltre a essere delle creature che vivono nell'ambito di una società, di una cultura, eccetera, abbiamo una struttura biologica che comunque condiziona la nostra natura, da cui non possiamo prescindere, che dobbiamo conoscere sempre meglio. Tuttavia non bisogna fare l'errore opposto, dopo aver trascurato la biologia, di pensare che la biologia sia tutto. Ecco, questo è un po' il punto conclusivo. Grazie Di Francesco, grazie Rumianti, arrivederci. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Con Barbara Gallavotti, ciao Barbara. Ciao Federico. Questa sera parliamo di sopravvivenza delle specie, solo che Barbara, la specie saremmo noi, il che significa che siamo a rischio già? Beh, non proprio a rischio, non stiamo messi proprio male come gli orsi bianchi. O i gorilla, ecco. O i gorilla, però ultimamente gli scienziati si sono concentrati abbastanza sul destino delle specie che noi mangiamo, quindi cosa avremo da mangiare nei prossimi anni. Ora, qualcosa avremo, perché certe specie se la cavano meglio di altre, però certo le nostre abitudini sono messe abbastanza in crisi. E ne parliamo in questo periodo soprattutto perché sono passati 4 anni dalla firma del protocollo di Kyoto, l'anniversario è stato il 16 febbraio e all'epoca ci si era dati appuntamento dopo 5 anni, e quindi a dicembre si terrà a Copenaghen la seconda conferenza di tipo Kyoto, diciamo, certo, nella quale si rifarà il punto un po' della salute del nostro pianeta. E tu hai intervistato qualcuno che ci racconta di queste cose? Sì, ho intervistato Andy Jervis, che si è occupato proprio dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura. È un giovane ricercatore inglese, lavora in Colombia, ha 31 anni, ha cominciato lavorando come geografo, all'epoca studiava la distribuzione delle diverse specie vegetali nel globo, invece attualmente conduce uno studio su come le coltivazioni reagiranno ai cambiamenti climatici. Lo fa in collaborazione con Bioversity International, che è un centro di ricerca internazionale sulla biodiversità agraria, e poi con il Centro Internazionale per l'Agricoltura ai Tropici. In particolare si sta focalizzando sulle specie che sono le parenti selvatiche di quelle coltivate. E allora a Jervis abbiamo chiesto perché studia proprio loro, perché sono così importanti. La domesticazione delle specie selvatiche parenti di ciò che coltiviamo nei campi è alla base stessa della nostra agricoltura, e oggi le specie selvatiche stanno divenendo sempre più importanti perché le biotecnologie hanno bisogno di loro come fonte di geni con cui migliorare le coltivazioni esistenti. E ci sono molti esempi di come le specie selvatiche siano state utili per aumentare la resistenza ai parassiti o alle malattie nelle specie coltivate. Pensiamo che il loro ruolo in questo secolo sarà sempre più rilevante. Si dice che le specie selvatiche parenti delle nostre coltivazioni siano particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Cosa possiamo fare per conservarle? Noi ci siamo concentrati su alcune parenti selvatiche delle specie molto coltivate nel mondo. Queste specie, come altri tipi di biodiversità, vivono libere nell'ambiente e sono esposte agli agenti naturali, quindi se il clima cambia, ovviamente sono a rischio di venir colpite in vari modi. Ad esempio il 10% delle specie di patate selvatiche che ci sono nelle Ande, in Sud America, sono minacciate di estinzione e abbiamo trovato percentuali simili in altre specie selvatiche parenti di specie coltivate. Un'opzione per cercare di arginare il problema è raccogliere i semi e conservarli in apposite banche di geni o in banche di semi. Secondo i nostri modelli, si tratta di una misura di conservazione molto importante, perché a lungo termine prevediamo che molte specie cruciali per l'alimentazione saranno minacciate nel loro ambiente naturale. In generale, il problema di adattare l'agricoltura ai cambiamenti climatici è qualcosa che riguarda molte persone diverse, non solo scienziati, ma anche, direi forse soprattutto, i coltivatori. Come possono coltivatori e scienziati collaborare per trovare insieme le soluzioni migliori? Naturalmente nei millenni passati sono stati gli agricoltori e non gli scienziati ad addomesticare le specie e a farci arrivare alla diversità che abbiamo oggi. Gli agricoltori hanno moltissime conoscenze e questa conoscenza indigena, locale, è molto importante se si vogliono esplorare possibili modi per adattare l'agricoltura ai cambiamenti climatici. Penso che ci sia posto per una collaborazione importante tra i ricercatori e gli agricoltori. In particolare, i ricercatori possono essere d'aiuto con le loro analisi e influenzando i governi in modo da convincerli ad adottare politiche agricole che aiutino gli agricoltori ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Stando alla vostra ricerca, può dirci se ci sono coltivazioni che avranno un vantaggio dai cambiamenti climatici che sono previsti, ad esempio le temperature più elevate oppure un tempo più instabile, e quali sono le coltivazioni che andranno invece incontro a tempi difficili o magari addirittura scompariranno? Si sentono raramente storie confortanti sui cambiamenti climatici. In genere la stampa e gli scienziati ne danno un'immagine assolutamente negativa. Un fatto interessante che è apparso nei nostri studi è che tra le colture ci sarà chi vince e chi perde, e ce ne saranno alcune che saranno addirittura favorite dal cambiamento. Un buon esempio è dato dal Gran Turco e dalla cassava in Africa. Nel caso del Gran Turco abbiamo riscontrato che ci sono altissime probabilità di significative riduzioni di resa dei raccolti in Africa meridionale, mentre nel caso della cassava, che è un alimento alternativo al Gran Turco, ci troveremo con un aumento del territorio potenzialmente adatto alla sua coltivazione. Dunque, una possibilità potrebbe essere quella di passare da una coltura all'altra. Naturalmente questo non è facile come potrebbe sembrare, perché esistono intere colture costruite attorno al Gran Turco come alimento. Sarebbe un po' come chiedere agli italiani di cominciare a mangiare riso al posto della pasta. Ma prima o poi questi cambiamenti andranno fatti, e quella di usare la cassava come alternativa è un'opportunità. In effetti, venendo ad alimenti a cui siamo più abituati, cosa capiterà ad esempio alle fragole oppure alle mele? Il nostro modello di previsione mostra che a livello globale le fragole soffriranno del fatto che hanno un'adattabilità molto limitata e quindi vedranno molto ridotto il terreno a loro disposizione. Stessa cosa nel caso delle mele. Anch'esse vedranno una riduzione significativa delle zone adatte alla loro coltivazione. Ma per altre colture, magari meno appetibili per i gusti dei consumatori italiani, come ad esempio il miglio, ci sarà un incremento notevole. Quello che abbiamo riscontrato è che globalmente ci saranno colture che vinceranno e altre che perderanno molto. Naturalmente, le vostre conclusioni sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle coltivazioni e sulle specie selvatiche con cui sono imparentate sono basate su modelli e su raccolte di dati. Puoi dirci come funzionano questi modelli? Beh, in realtà si tratta di un modello che a sua volta si basa su un altro modello. Nel nostro caso, il modello di base è derivato da quello sviluppato dai supercomputer che calcolano i futuri modelli climatici globali. Loro predicono quello che succederà in termini di cambiamento climatico e noi creiamo un modello che ci dice in che modo questo avrà effetto sulla disponibilità di alcune colture a crescere in determinate zone climatiche. Nel fare tutto ciò abbiamo spesso anche l'incertezza di non sapere quello che i governi decideranno di fare per far fronte ai cambiamenti climatici. In ogni caso, in questo tipo di analisi si fanno enormi progressi e ogni giorno aumenta la nostra capacità di previsione e facciamo passi avanti nel mettere a punto una fotografia sempre migliore di quello che sarà in futuro. Se voi poteste dare dei consigli ai governi, quali misure suggerireste come le più urgenti da prendere riguardo all'effetto dei cambiamenti climatici sulle coltivazioni? Le previsioni per il futuro dell'agricoltura da qui a 100 anni sono piuttosto nefaste. Credo che un'azione immediata possa essere semplicemente quella di ridurre le emissioni di gas serra. Questo è sicuramente il favore più grande che si può fare all'agricoltura nel lungo periodo. Nel breve periodo, nei prossimi 10 anni, la vulnerabilità di alcune zone ai cambiamenti climatici esiste e l'Africa, in particolare l'Africa del Sud, ne sono un esempio. In questi casi bisognerebbe indagare e conoscere i punti vulnerabili e i governi, da quelli locali ai forum internazionali, dovrebbero sviluppare politiche che aiutino gli agricoltori ad adattarsi ai cambiamenti climatici e a continuare a trarre il loro reddito e il loro benessere dall'agricoltura. Grazie ad Andy Jervis e buonasera. Thank you very much. Grazie a voi. Siamo alla soluzione del quiz. Vi ricordate la domanda? Quelli che nei film d'azione sparano dentro i televisori e si vedono fiammate che ne escono. Bene, è proprio vero che va così. C'era da decidere se quello che vediamo nel film è corretto, eccessivo o addirittura sottodimensionato. La risposta giusta è la prima. Non succede niente, si fora il vetro, l'apparecchiatura fa pluff e si ferma. Né fiammate, né getti di schegge micidiali. Ve lo dicevo già nella scorsa puntata, siamo in un anno denso di eventi di ogni tipo dedicati ai 200 anni dalla nascita di Darwin. Non vi parleremo però di tutti questi appuntamenti, ma cercheremo invece di raccontarvi aspetti molto particolari di questo personaggio, delle sue ricerche e dei riflessi che hanno avuto appunto queste ricerche in molti settori. Maurizio Melis vi parla adesso delle relazioni fra Charles Darwin e Sigmund Freud. Quando Freud chiesero di elencare 10 opere da salvare, tra queste indicò L'origine delle specie di Darwin. In effetti Darwin compare moltissime volte negli scritti di Freud, che fu influenzato profondamente da questo naturalista, dal fondatore delle teorie evoluzionistiche. Parliamo di questo rapporto fra due grandi scienziati, iniziatori di due discipline, con Antonio Alberto Semi, psicoanalista e presidente dell'Ateneo Veneto, che è in linea con noi. Buonasera Semi. Buonasera a tutti. Dunque, intanto le chiedo chi era Darwin per Freud, perché comunque Freud viene un po' dopo. Certo, Freud viene due generazioni dopo, diciamo. Darwin era per lui un modello ideale. Un modello ideale sia come scienziato sia per l'onestà intellettuale che dimostrava nelle sue ricerche e nel tenere conto delle critiche altrui, e sia era, oltre che un modello ideale, anche un qualcuno che apriva veramente delle prospettive enormi alla conoscenza anche dell'essere umano, ricollocandolo in un contesto naturale da cui era stato estratto forzosamente, diciamo. Ecco, siamo a cavallo tra la fine dell'Ottocento, abbiamo detto, e l'inizio del Novecento. Qual è il punto di convergenza fra queste due discipline nascenti, la psicologia e quindi la appena nata anche lei scienza evoluzionistica? Direi che ci sono molti punti di convergenza, ma il punto più importante forse è quello del quesito delle origini. Sia Darwin dal punto di vista biologico e naturalistico, sia Freud dal punto di vista psicologico e psicoanalitico, si pongono il problema di qual è l'origine dell'individuo e della specie. E certo. Il punto di convergenza è appunto in questo interesse del perché bisogna porsi sempre questo interrogativo delle origini e se questa è una condizione umana, cioè se la specie umana è anche caratterizzata dal fatto di chiedersi sempre da dove viene fuori. Ecco, e all'epoca era, come dire, quali erano le tesi che contrapposte? C'era un'ipotesi addirittura di trasmissione biologica di alcuni contenuti psichici. Sì. All'epoca Freud, che pure era d'accordo con Darwin sull'idea che fosse esistita un'orda primitiva, cioè un gruppetto umano, una specie di mini tribù all'interno della quale si doveva organizzare un sistema sociale di regole, Freud pensava che ci fosse un ricordo proprio, un contenuto psichico molto preciso, sì, che veniva trasmesso biologicamente. E questo naturalmente era in contrasto con le teorie dell'eredità, perché l'eredità non prevede che si possano trasmettere dei ricordi. Certo. Attualmente direi che la cosa è stata alquanto superata, perché è stata superata attraverso una serie di ricerche che hanno mostrato come effettivamente ci sia una trasmissione inconscia tra le generazioni. E come questa trasmissione sia un qualche cosa che funziona al di là dell'individuo, cioè che nessuno, né la madre si rende conto di trasmettere per esempio un contenuto al neonato, né il neonato sa che cosa sta ricevendo. E allora questo è un qualche cosa che evita, diciamo così, il conflitto, ma anzi, per così dire, integra le due teorie, quindi l'evoluzione biologica e l'evoluzione culturale si sommano e si integrano tra di loro, rendendo naturalmente più complicato il destino della nostra specie. Grazie mille Semi, allora. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. E così ora sapete anche quali siano le relazioni fra Darwin e Freud. Möbius vi ha raccontato tutto per questa puntata. Buona serata a tutti. Ci sentiamo la prossima settimana.